Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccoci, noi siamo pronti, voi ci siete tutti, andiamo a sentire il nostro sommario. Non posso farcela. Le ragioni dei nostri no. Chi ben inizia è a metà dell'opera. Parliamo della colazione. I telomeri cosa sono? Ce lo spiega un premio Nobel. Non sono capace, non fa per me, non sono portato, non ne voglio sapere, non ci riesco. Sono questi modi diversi per dire no, per dare voce ad un no che magari ci arriva da dentro, per evitare di fare qualcosa o anche di sentire su di sé il giudizio negativo degli altri. Di questo parliamo oggi perché vogliamo un po' riflettere sulle nostre difficoltà. Capiterà anche voi, è come se all'improvviso si attivasse un freno e può succedere in occasione per motivi molto diversi. Insomma, farci dire no, non ce la faccio, non sono capace, non mi riesce. Può essere l'idea di donare sangue, smettere di fumare, imparare una lingua, prendere l'aereo, perdonare un torto, avvicinarsi ad un esame, essere puntuale. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio, lo ascoltiamo insieme. Non sono proprio capace di essere serio. Dire bugie. Di essere affidabile. Mi sono sentita male quando non ho capito qualcosa in inglese. Quando ho fatto del male. Quando non vedo la mia famiglia. Mi sono sentito male la prima volta che ho volato e da quella volta lì non sono più riuscita a volare. Allora, la cosa che mi fa sentire più a disagio in assoluto è quando passo in mezzo alla gente. Non ce la faccio a non andare d'accordo con le persone. Non ce la faccio a chiedere scusa. A non ridere. A stare senza cioccolato. Mangiare pesante. Non sono proprio capace di non fare sport. Non ce la faccio più a studiare. Non ce la faccio a non pensare. A non essere nervoso. A essere preciso. Non ce la faccio ad accettare le critiche. Non sono proprio capace di dire grandi bugie. Perfezionare l'inglese. Di essere puntuale. Di essere sempre rilassata. Ad accettare gli amici del mio fidanzato. Non sono proprio capace di non guardare una bella ragazza. Di essere modesto. Mi sono sentita male quando ho detto una bugia. Quando non ho consegnato un progetto. Insomma, ce n'è per tutti, ma per non fare di ogni erba un fascio, ho invitato il professor Bressa, docente di psicobiologia del comportamento umano Università IPU di Viterbo, che ci darà una mano a capire le ragioni che stanno dietro ai nostri non sono capace, non ce la faccio. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Non è detto che vengano tutti per nuocere, professore, in alcuni casi possono essere assolutamente utili, una sorta di protezione, autoprotezione. Sì, non solo, ma sono anche piccole conferme della nostra fallibilità, piccoli stimoli a tentare di reagire. È molto brutto quando il non sono capace è poi seguito eventualmente da sono fatto così, che è un'ammissione terrificante e negativissima di, come dire, di autolimitazione, di limitazione del proprio potenziale. Quando non è seguito da sono fatto così, beh, ben venga, è sempre un segnale appunto di voglia di apertura. Professore, vogliamo però creare delle categorie, dei gruppi per cercare un po' di contestualizzare questo universo così variegato di situazioni che ci tengono sotto scacco? Allora, se vogliamo fare un piccolo tentativo di classificazione, potremmo vedere quelli che non ce la fanno perché hanno una paura che sconfina con una patologia, può essere una fobia, e in questo caso è la non ce la faccio a prendere la metropolitana piuttosto che l'aereo. Altre sono non ce la faccio perché non ho pazienza di provarci abbastanza e quindi definiscono magari dei caratteri più arrendevoli e meno inclini anche alla frustrazione del continuare a non farcelo, lo studiare l'inglese piuttosto che l'apprendere la matematica, piuttosto che farsi piacere la suocera. Ancora un'altra, se vogliamo, in tre grandi categorie potrebbe essere quella di coloro che non ce la fanno perché in realtà non sono motivati a dover fare qualcosa che sembrerebbe loro opportuno, può non avere quindi il bernoccolo o la predisposizione o per scienze o per lingue o per comportamenti per i quali bisogna avere un cervello che sia capace di lavorare in quella direzione. Questa è così una classificazione che mi viene in mente molto generica, ma che già può darci delle indicazioni, insomma. Senta, possiamo mettere anche quelli che non è mai il momento, rimandano, rimandano, rimandano? Sì, bellissimo, sono negli Stati Uniti è una categoria, c'è anche un'associazione, addirittura dei procrastinatori, cioè sono coloro che comunque sia hanno sempre la possibilità, di fronte ad uno stimolo nel quale viene chiesto loro, hanno la risposta prontissima per spostare nel tempo o nello spazio il loro impegno, e finiscono poi ovviamente per non fare, perché non hanno mai definito quando o come farlo. Professor Bressa, tra i vari gruppi che lei ha evidenziato, qual è quello che potrebbe avere più bisogno di aiuto, o meglio, che modificando questo atteggiamento potrebbe stare meglio? Il gruppo che sicuramente risente più di un aiuto è quello che abbiamo chiamato, molto virgolettato naturalmente, sì, perché è una patologia minore, ma comunque patologico, cioè i fobici, nel senso che in questi casi c'è sempre un trauma. Allora, non riesco a prendere più l'autobus piuttosto che la metropolitana, sì, porta con sé una brutta avventura nella quale si è stati coinvolti in un effetto negativo, non riesco più a prendere il tram, ma ero su quel tram che l'altro giorno si è scontrato e ho avuto una grande paura. In questo caso non basta la forza di volontà, tra virgolette, di dire bene, lo riprendo, perché non riuscirei a farlo. E allora in alcuni casi più leggeri può essere sufficiente un piccolo aiuto a recuperare quella condizione che si chiama evitamento, vale a dire quello stato d'animo per il quale, dovendo metterci su un tram, preferiamo evitarlo perché ci calma l'ansia, mentre certo, invece poi ci viene l'ansia perché non abbiamo preso il tram. Quindi, nei casi più complessi occorre un supporto di psicoterapia che sappia ricostruire gli esiti del trauma e consentire un riavvicinamento, in modo tale che poi il trauma venga definitivamente rimosso dalla nostra psicologia. Andiamo a Imperia, ci aspetta Stella che rompe il ghiaccio. Stella, buongiorno. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Io volevo chiedere alcune cose. Ho 49 anni, però alcune volte mi sembra di averne 18-20, nel senso che rimando sempre le cose. Quelle che posso fare oggi le rimando domani, quando poi le faccio dico, stupida che sono stata, avrei potuto fare meglio e di più. Mi accomodo un po' sulle situazioni, nonostante sono molto impegnata, ho due figli, sono da sola, quindi le cose ci sono da fare. Però quando parlo con gli altri tutti mi vedono invece una persona forte, decisiva, pronta a tutto, senza timori, senza paure, cosa che non è vera. Beh, queste le abbiamo tutte, Stella, meno male. Vabbè, no, però nel senso di come mi vedono gli altri. Certo. Professor Bressa. Stella già sembra una tipa tosta, anche se lei dice giustamente tendo sempre a rimandare, poi una volta che faccio le cose dico tutto qua, potevo farlo prima, capita anche a me, devo dire, mi ritrovo un po' in questa descrizione di Stella. Un commento. È profondamente umano il fatto di avere la sensibilità di rendersi conto che funzioniamo in un certo modo e quindi siamo adattati ad un certo stile di vita, compreso quello di poter rimandare, ma che poi dopo diamo ascolto a quella vocina terrificante del perfezionismo, dell'educazione dell'anziana nonna, di quello che potrebbero pensare gli altri, e rischiamo di rendere disadattato qualcosa che invece è funzionale. Cioè, in fin dei conti non facciamo del male a nessuno, non procuriamo disagio a nessuno, siamo in grado di essere al meglio ottimali. Lei descrive una situazione complessa della sua vita di relazione, e perché si deve porre il problema che sarebbe meglio se fosse diversa? E questo dovrebbero porselo prima di Stella o prima di noi centinaia di migliaia di persone che sulla faccia della terra non se lo pongono mai questo problema. Antonia ci chiama invece da Padova, buongiorno Antonia. Buongiorno e grazie. Io vi stavo ascoltando come sempre con molto interesse e mi ha suonato un campanellino d'allarme nella testa quando ho sentito il professore dire non dobbiamo mai dire ma io sono fatto così, e io mi permetto di non essere molto d'accordo. Bene, Antonia. Per la mia esperienza personale, io ho fatto un lungo lavoro su me stessa, ero una persona insicura, molto timida, e forse per un senso di inadeguatezza che mi era stato così fatto crescere dentro da altre persone o forse da me stessa o entrambe le cose. Sì. Solo quando ho preso coscienza del fatto che io ero così con i miei limiti, ho visto anche i miei pregi, solo quando sono salita sul gradino di questa persona, ok, sono qui, sono io, sono fatta così, mi accetto. Solo allora sono riuscita con serenità e fiducia in me stessa a cominciare a lavorare su anche i miei difetti e ora mi sento una persona più sicura che si permette anche di telefonare per non essere molto d'accordo con una frase che naturalmente si applica ai casi solo non patologici, è chiaro. Però sulle nostre sicurezze, insicurezze o... Antonia dice bisogna iniziare ad accettare noi stessi con i nostri limiti e quindi sono fatto così, conoscere forse il carattere. Professor Bressa, il diritto di replica, no. Di risposta, di precisazione. No. Smack, triplo smack ad Antonia perché ha completato un pensiero che così come... erano baci quelli quindi? Erano baci? Erano così, sono smack. Antonia, si prendono anche baci chiamando a Radio 24, vede? Smack topolineschi. Anche topolineschi, certo. No, perché ha completato un pensiero che così come era, avevo fatto prima era mozzo. Mi riferivo, sono fatti così, a tutti quelli che, fatto loro notare un'incongruenza, un difetto, una manifestazione eccessiva, modificabili soltanto applicando un pizzico di rispetto, un pizzico di pazienza, un pizzico di attenzione, non lo fanno e se glielo fai notare ti dicono ma sai, io sono fatto così, cioè, al 154esimo ritardo di mezz'ora ad un appuntamento gli dici scusa sa, ma dimmelo così io vengo mezz'ora più tardi, dice no, e io sono fatto così, purtroppo sono abituato ad essere ritardatario. Bene, questi sono fatto così, sono da penalizzare, non quelli che capaci di riflettere sui loro limiti, sicuramente fanno uno sforzo eccezionale per se stessi e naturalmente poi lo propagano come esempio a chi è loro vicino. Infatti, a proposito del commento di Antonia, sono arrivati numerosi sms che danno in parte ragione ad Antonia e specificano sì, ma che il sono fatto così non sia un alibi. E così riassumo l'sms di Tiziana, Alberto, Marcella, Giacomo e altri due che non sono firmati. E io andrei invece a Camilla che ci chiama da Bologna. Camilla, buongiorno. Buongiorno. Lei come è fatta, Camilla? Lo dice sono fatto così? Io a volte sì, perché anch'io sono una gran ritardataria. Ad esempio io lo dico quando a casa mi dicono ma vuoi sempre tutte le cose in ordine e io dico beh sì, io sono fatta così, mi piace vedere l'armadio in ordine. A volte a darci scacco è una sorta di blocco cognitivo, come se il nostro cervello non trovasse mai la porta giusta da aprire dietro alla quale si trova la soluzione a prove che poi per noi risultano complesse. Vorrei fare degli esempi concreti. Entra in casa un elettrodomestico e io so già che non capirò le istruzioni di montaggio e funzionamento e passa la mano. La stessa cosa può capitare con le funzioni del cellulare. Mi applico, leggo un po', provo, poi alla fine non capisco più nulla. Oppure, ahimè, devo fare i conti con la spesa e comincio, ricomincio più volte, poi sommo, sottraggo, eccetera. Alla fine mi sembra di non riuscirci. O ancora, come mi scrivono alcuni ascoltatori, cerco di memorizzare una canzone che mi piace molto, ma le parole non mi entrano in testa. Se vi ritrovate in una di queste situazioni, abbiamo un aiuto per voi, perché è in linea con noi il professor Stefano Cappa, che è ordinario di neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, che cosa c'è dietro a questa difficoltà? Sembra che a un certo punto quel che è stato e il nostro cervello non abbia più voglia quasi di lavorare, di apprendere, di memorizzare. Ma io direi che un atteggiamento rinunciatario è negativissimo, perché in realtà di fronte a queste cose succedono tipicamente in una certa fase di età, diciamo, inizio invecchiamento. Sappiamo benissimo che se le cose stanno procedendo in modo normale, cioè se non c'è una patologia neurologica, ci sono delle modificazioni, diciamo, fisiologiche, sì, legate all'invecchiamento, cioè che sono fondamentalmente una certa perdita degli aspetti, diciamo, più complessi e delicati della memoria, che però vengono benissimo compensate. Per cui sicuramente a un certo punto ci si rende conto di non riuscire magari a fare le stesse cose, le cose con lo stesso livello di efficienza che si facevano prima, però un atteggiamento rinunciatario è sicuramente negativo, perché anche sappiamo adesso in modo, diciamo, più rigoroso di quanto sospettassimo in precedenza, che tenersi in attività intellettuale fa un gran bene, cioè ha un effetto sicuramente protettivo sulle conseguenze nefaste dell'invecchiamento normale e anche sembrerebbe di quello patologico. Ci scrive Augusto: il primo segno di vecchiaia è la rinuncia ad apprendere, professore. È giusto? Giusto nel senso che molte persone di fronte appunto a queste modificazioni di cui si sono consapevoli chiaramente, soprattutto le persone che sono più impegnate, che fanno sì, attività più, diciamo che mettono maggiormente in gioco la memoria e l'apprendimento, si rendono conto di fare un po' meno bene di prima e magari, come lei diceva prima, rinunciano, cioè non si mettono in gioco. Anche qua il messaggio è esattamente il contrario. Chiaramente bisogna cercare di trovare un po' il punto di equilibrio tra mettersi in gioco, sforzarsi e non essere eccessivamente frustrati, cioè è inutile che ci si metta a fare una cosa che magari non si sarebbe riuscita a fare anche 30 anni prima. Bisogna essere realistici, ma assolutamente non perdere i colpi. Senta, ma per non perdere i colpi, intanto c'è in linea con il professor Bressa, se vuole intervenire, professore. Mi sembra che siano sante parole, quindi nulla potrebbe essere detto meglio. Senta, ma si insiste molto sul tenere allenato il cervello, le parole crociate, cercare magari di memorizzare, che ne so, la targa dei numeri, le targhe delle automobili. Serve, non serve, serve a tutti? Allora, è un po' un allenamento come facciamo con i muscoli e quindi dobbiamo... Ecco, qua sono passati dei messaggi che secondo me non sono proprio precisi. Allora. Nel senso che sicuramente, come dicevo, ci sono delle ottime evidenze, tipo uno studio americano su tantissimi soggetti che hanno trovato un effetto protettivo dell'esercizio cognitivo sulle conseguenze di invecchiamento, ma l'aspetto fondamentale è che uno deve fare delle cose che abbiano anche un senso, che gli piacciono, cioè mettersi a fare degli esercizi ripetitivi, noiosi, magari col computer, che non hanno nessun interesse, secondo me lascia un po' il tempo che trova. Senta, professore, venga dalla nostra, lei che di cervello è un grande esperto, lei come si allena? Io cerco di fare appunto le cose che mi piacciono, di non ridurre gli interessi, anche se magari le pressioni, le richieste continue ti porterebbero a abbandonare attività intellettuali soddisfacenti come possono essere la lettura, il cinema, il teatro, quello che vuole, cercare di salvare tempo per quelle. E più aggiungerei una cosa importante, l'altra cosa che sicuramente sembra sono dati molto convincenti, sia proveniente da ricerca di base che da studi su popolazioni, che sembra avere un effetto protettivo, all'esercizio fisico. Non va assolutamente dimenticato. Direi che la combinazione che sembra uscire dalla ricerca in questi ultimi anni è che una combinazione di attività intellettuali impegnative ma gratificanti e di un esercizio fisico regolare sembra avere un rilevante effetto protettivo. Mens sana in corpore sano, più o meno. Che non è che sia una gran scoperta, voglio dire. Senta, professore, molti ascoltatori mi stanno scrivendo: non riesco ad imparare l'inglese, a perfezionarlo. Mettersi a imparare una lingua dopo, insomma, finita la scuola, ecco, da dopo l'università in poi, può essere, dato che ad esempio l'inglese è comunque, bisogna saperlo, bisogna impararlo, può essere una sorta di allenamento? Allora, io anche qua farei un minimo di precisazione. In effetti le persone non hanno tutte le stesse propensioni, diciamo. Sì, come diceva il professor Bressa, insomma. Non voglio dire banalmente, ci sono persone che veramente hanno grossa facilità a prendere le lingue, persone che invece hanno delle difficoltà. Sono un po' gnocche. E fra l'altro sappiamo anche un po' di più su quali sono i meccanismi possibili che ci stanno dietro, cioè differenze nella capacità, per esempio, della memoria fonologica. Ci sono delle differenze individuali. Per cui io direi, se uno non aveva interesse a prendere le lingue, lo faceva male da giovane, forse pensare di mettersi a imparare l'inglese in età a 40 anni non è una buona idea. Si può provare, ma non vorrei appunto che ingenerasse più frustrazione che soddisfazione. Invece, ovviamente, se uno ha sempre avuto un grande interesse per questo aspetto della cultura, è chiaro che da anziano si può dedicare con grande piacere a imparare anche il cinese. Mi piace questa, dobbiamo conoscerci, cercare di fare le cose piacevoli, e al nostro cervello piace che noi ci divertiamo. Eccoci di nuovo insieme. ora vi suggeriamo un modo per iniziare bene la giornata, però devo chiedervi un favore. Fateci sapere quello che avete mangiato a colazione. L'invito vale soprattutto per chi con la colazione ha, direi, poco feeling. Insomma, quelli che bevono un caffè al volo perché non c'è tempo, perché non hanno fame. Ecco, proprio questi ascoltatori vorrei convincere a dedicare un pochino più tempo a quel mini pasto della mattina che ormai da tutti gli esperti è considerato il più importante della giornata. E saluto il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professor Speciani, dia lei il buon esempio. Cosa ha mangiato oggi a colazione? Ad esempio, stamattina io mi diverto moltissimo a prima colazione e per me è davvero una specie di pranzo. Quindi stamattina, ad esempio, intanto un caffè senza zucchero, quindi perché mi piace il gusto del caffè. Poi ho mangiato dei cereali integrali con del latte di soia, ho messo dentro tre mandorle, ho messo dentro dei semi di zucca, che sono quelli che tra l'altro non fanno cadere i capelli. Ho preso una fetta di pane integrale, ci ho spalmato sopra da ghiftella, che è ricotta con del cacao e con del miele e con delle mandorle. Quindi in realtà non ho utilizzato, ho fatto una situazione ricca. Ho mangiato anche due fette di prosciutto, perché è importante il rapporto tra carboidrati e proteine. Quindi ho mangiato un pasto vero stamattina, senza nessuno zucchero falso, cioè senza zuccheri bianchi. Ho mangiato delle sostanze che hanno anche un valore dolce, hanno un valore proteico, hanno un valore carboidratico. Io so che qualunque cosa succeda oggi, prima delle tre non ho un briciolo di fame, nel senso che resisto, lavorando in ambito medico può capitare realmente di tutto, quindi la possibilità e la necessità di essere lucidi con la testa e pronti a rispondere giustamente a chi vedi alle 8 del mattino come alle persone che vedi alle 2 del pomeriggio, dando sempre tutto questo il massimo di te, insomma. Quindi c'è un insieme di sostanze che danno una garanzia di salute. Quindi a tutti gli effetti un vero e proprio mini pasto. Ma quanto, assolutamente. Ma quanto tempo si alza prima per prepararsi tutto questo ben di Dio? Guardi, le cose sono già pronte. Io ho dei begli scaffali con dentro cereali diversi. Si tratta, quando si va a comprare il pane, anziché comprare del pane qualsiasi, dicendo poi resta lì, uno prende del pane integrale che dura molto di più. Talvolta il pane ce lo facciamo anche noi, ma esistono, per fortuna, rari, ma si trovano dei pani integrali ottimi. Per farsi la ghiftella basta una ricotta a cui uno aggiunge un cucchiaio di cacao, ed è facile come mettere un cucchiaino di zucchero nel caffè, che peraltro non va messo, e una frutta, ecco, dimenticato, stamattina c'era anche un frutto, c'è sempre qualcosa di vegetale insieme. Quindi è un tempo in realtà non così importante, non così difficoltoso. La colazione deve consentire di essere fatta in maniera ampia, deve avere il valore di un pasto anche. Arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori che hanno così raccolto il nostro invito, e c'è Monica da Padova che ci scrive: cornetto, latte e caffè e fiocchi e frumento, per meno non mi alzo nemmeno da letto. Cappuccio e brioche, molto classico, è invece la colazione di Nicola, mentre Lisa preferisce due fette di pane con marmellata e orzo. Oh, già Lisa mi piace di più, perché intanto utilizza dei cibi non di tipo industriale. Il cornetto, io devo dire, talvolta non ce lo tolga il cornetto, alla mattina. Però lo sa che ci sono, ad esempio, delle torte o cornetti o brioche che, se sono fatti con farina integrale anziché con farina bianca raffinata, hanno un gusto, un sapore estremamente importante, ingrassano molto molto meno, hanno un indice glicemico molto più basso, sono buonissimi e garantiscono anche per il nostro dimagrimento nel corso della giornata. Quello che manca, ad esempio, alle prime due persone che hanno mandato il loro messaggio è una componente proteica, che non è per forza che uno debba mangiarsi un uovo sodo o due fette di prosciutto, possono anche andare bene delle proteine vegetali. Pensi alle mandorle. Le mandorle, un 5-6 noci hanno dentro quasi le proteine di mezza bistecca, e uno utilizza un po' di noci insieme al suo croissant fatto bene secondo dei criteri giusti, ed è quindi buonissimo, ed ecco che una colazione diventa sana, buona, gustosa, palatabile, come dire. Teniamo presente che al mattino è l'unico momento in cui noi, avendo degli ormoni che si chiamano catabolici, nome difficilissimo per dire che in realtà prendiamo quello che mangiamo e lo trasformiamo in energia e calore anziché in ciccia, mi perdoni la parola non scientifica. Senta, no, ma mi piace la ciccia, anche perché chi ha problemi di ciccia e si mette a dieta spesso cerca di risparmiare le calorie tagliando proprio la prima colazione. No, questo non funziona, assolutamente. Proprio teniamo presente che tutti i mammiferi hanno questo momento che è la prima ora, ora e mezza e non di più, dopo il risveglio, che corrisponde al momento in cui noi già da 1 milione di anni eravamo pronti. Se avevamo cibo potevamo andare in giro a fare caccia e raccolta per noi e per i nostri figli, per la nostra famiglia. È un momento in cui noi addirittura possiamo anche avere, rispetto ad altri momenti della giornata, un certo eccesso di carboidrati, cioè se vogliamo proprio toglierci il gusto di mangiarci 3 belle fette di pane spalmate con il miele, è l'unico momento in cui possiamo farlo, perché dopo, nel corso del pomeriggio, diventa dominante l'insulina, ormone, avrebbe detto, importante, ma che toglie gli zuccheri dal circolo sanguigno e li trasforma e li mette nei posti sbagliati. Quindi è davvero il momento più importante, solo che va bilanciato, intanto va fatto, va bilanciato con un giusto rapporto di proteine e quindi uova. Io spesso cito il pesce perché io lo mangio sovente al mattino e la gente storce. Non mi verrebbe tanta voglia di mangiare. Non mi verrebbe, però pensi che da Bellinzona in su tutto il nord Europa utilizza pesce, dalle aringhe al salmone ad altro, dove una colazione come viene fatta in Nord Africa anche. Ma anche in Nord Africa ti portano le polpettine di carne, ti portano le uova insieme ai cereali, ti portano le lenticchie, ti portano le fave. Cioè si cerca un apporto misto proteico come facevano i nostri vecchi 2 generazioni fa, in cui il primo momento della giornata era l'unico in cui si potesse mangiare qualcosa anche di proteico insieme. Grazie professor Speciani. Grazie a voi. Buon lavoro e buona colazione. Grazie. C'è un'ora giusta per tutto, cari amici, anche per prendere le medicine. Questa può essere una strada per ottenere il massimo effetto con il minimo rischio. Insomma, occorre rispettare i tempi. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Manfredini, direttore dell'unità operativa di medicina interna all'ospedale del Delta ASL di Ferrara. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, chi deve prendere più farmaci, per comodità credo, o almeno per paura di dimenticarne alcuni, di solito li prende tutti insieme. Li prende al mattino, li mette tutti in fila, le varie pilloline, ad una le butta giù, con o senza l'acqua. In questo modo così risparmia tempo, si toglie il pensiero, non rischia di dimenticarle, ma lei che dice, è una buona idea oppure si potrebbe fare meglio? Ahimè, non è una buona idea, anche se effettivamente siamo tenuti, ormai ultimamente diamo sempre tante pillole, più ne diamo e più è facile che la persona si dimentichi. Però, anche se forse può sembrare comodo, non è appropriato prendere tutte insieme, perché alcune hanno delle regole precise. Faccio un esempio molto semplice, gli antibiotici devono garantire nel sangue una concentrazione sufficiente per uccidere i microbi. Quindi se il medico ci ha detto di prenderlo ogni 8 ore, deve essere ogni 8 ore, se ci ha detto di prenderlo 2 volte al giorno, deve essere mattina e sera. Per altri potremmo vedere regole diverse. Senta, anche un'altra corrente di pensiero suggerisce di prenderli sempre dopo i pasti. Si pensa che il farmaco preso a stomaco pieno sia meno dannoso, perché sennò tutti noi diciamo i farmaci, il fegato ti bucano lo stomaco. Noi tra di noi ci diciamo così, professore. Beh, alcuni farmaci effettivamente possono dare anche se non proprio un danno gastrico, comunque dei sintomi gastrici, magari come nausea, eccetera, quindi il fatto di prenderli dopo mangiato riduce questi effetti collaterali. Però la regola delle 3 volte al giorno ai pasti viene più forse per dettare per attaccare la somministrazione del farmaco a un evento che noi ci ricordiamo, certo, per essere più precisi, quindi non ha un valore scientifico per tutti, solo per qualcuno. Senta professore, diamo qualche indicazione, anzi ce la dia lei. Inizierei, se lei è d'accordo, a quella grande variegata famiglia di farmaci che vengono prescritti per chi ha malattie di cuore. Mi vengono in mente i farmaci per la pressione, quelli per il colesterolo. Certo. Ha detto giustamente grande famiglia, sì, perché all'interno di una definizione molto semplice, farmaci per il cuore e per l'apparato cardiovascolare, ne abbiamo tantissime famiglie. Allora, per esempio, fra i farmaci per tenere controllata la pressione, alcuni diciamo che non hanno una regola, quindi è indifferente che vengano assunti alla mattina o alla sera. Alcuni altri, alcune famiglie, magari ne potremo parlare in particolare, prediligono un'assunzione al mattino, sì, altri devono essere presi alla sera perché hanno un'azione più lenta e solo al mattino cominciano a esplicare il loro effetto, quindi al mattino quando abbiamo più bisogno perché la pressione è più alta sono più attivi. Quindi varia un pochino, alcuni farmaci come i beta bloccanti che abbassano i battiti del cuore meglio di giorno, perché di notte abbiamo già i battiti del cuore molto bassi, certo, perché predomina il sistema del vago, quindi questa è una regola. Il colesterolo viene prodotto dal fegato prevalentemente di sera, di notte. Quindi la pastiglia che noi diamo, che è un inibitore dell'enzima che produce il colesterolo, se lo diamo alla sera, quando questo enzima sta lavorando al massimo e fa più colesterolo, lo blocchiamo lì e otteniamo un risultato migliore. Mm. E per, arrivano molti messaggi riguardo anche all'aspirina, quando non viene presa per il raffreddore, ma in persone che hanno problemi di cuore. Ha un momento magico l'aspirina? L'aspirina è presa come antiaggregante, sì, quindi per evitare che le piastrine si aggreghino a formare il trombo, diciamo che per esempio è buona norma in questo caso prendere la stomaco pieno, perché l'aspirina può avere degli effetti gastrici. Consiglierei la somministrazione al mattino o dopo colazione o al massimo dopo pranzo, perché le ore del mattino sono quelle un pochino più in cui le piastrine si aggregano un po' di più. Ecco, poi uno rispetta sempre lo stesso orario, si abitua, lo prende dopo colazione o dopo pranzo, per esempio. Professore, d'accordo? Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E siamo tornati insieme, come vi anticipavo, oggi qui a Essere Benessere un ospite davvero speciale. Prima di presentarvelo vi faccio ascoltare un breve audio tratto dalla conferenza stampa trasmessa in diretta online sul sito internet nobelprize.org. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 jointly to Elizabeth Blackburn, Carol Grader and Jack Szostak for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase. E noi oggi abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni il premio Nobel 2009 per la fisiologia e la medicina, Elizabeth Blackburn. Buongiorno e benvenuta, professoressa, grazie. Buongiorno, Nicolette. Professoressa, molti di noi li hanno sentiti nominare per la prima volta ascoltando le motivazioni del premio. Voi invece i telomeri li studiate da anni e allora ci aiuta a capire cosa sono e soprattutto perché studiarli può davvero cambiarci la vita. I telomeri costituiscono la parte finale dei cromosomi. Tutto il nostro materiale genetico è in cromosomi che contengono tutte le istruzioni per le cellule. Nella parte finale dei cromosomi, il telomero è come un cappuccio, come il nodo che c'è alla fine di una stringa di scarpe. Col tempo il cappuccio si consuma e l'enzima telomerasi, per la scoperta del quale io e i miei colleghi abbiamo ricevuto il premio Nobel, ripristina i telomeri. Ed è la telomerasi che consente alle cellule di avere la capacità di crescere e di riprodursi per tutta la vita. Ma anche le cellule cancerogene hanno telomeri e li hanno in una forma iperattiva. Quanto più sono attivi, tanto più cancerogena diventa la cellula. Per questo motivo noi cerchiamo dei metodi per inibire l'alta telomerosi, in modo da impedire la crescita della cellula cancerosa. Poiché molti tipi di cellule cancerose hanno telomerosi iperattiva, pensiamo che questo sia un sistema per combattere il cancro. A riguardo ci sono già degli esperimenti in corso, anche se sono in una fase molto prematura e non abbiamo ancora le risposte. Si tratta di tentativi di usare fatti scoperti riguardo all'alta telomerosi per eliminare selettivamente le cellule cancerose. Selectively kill cancer cells. Anche questa volta, professoressa, il Nobel è stato diviso in tre, con la circostanza particolare che due scienziati su tre sono donne. Ed è la prima volta nella storia del Nobel per la medicina e del Nobel per la scienza in genere. Con un dettaglio, la dottoressa Carol Grader è anche sua allieva. Allora, un caso o un segno? I hope it is a sign that Spero che sia un segno che più donne si dedicano alla scienza e con grande successo. Spero che sia l'inizio di una tendenza tale per cui il successo ottenuto dalle donne nella scienza viene anche riconosciuto attraverso i Nobel. Penso che sia importante anche che abbiamo condiviso il premio, perché c'è stata collaborazione tra me e Jack Szostak e la mia allieva Carol Grader. Abbiamo messo in comune le nostre idee e il nostro lavoro. La condivisione del premio sottolinea in modo meraviglioso la natura collaborativa della scienza. La scienza prospera in condizioni di collaborazione. Quando la gente confronta le proprie idee con quelle degli altri, alla fine ottiene idee migliori. Bouncing ideas off each other and coming up with better ideas because they work together. Professoressa Blackburn, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buona ricerca. Alla prossima, buona giornata. Arrivederci and grazie. E noi continuiamo a parlare di ricerche, lo facciamo con la dottoressa Maria Grazia Daidone, capo Dipartimento di Medicina Molecolare e Oncologia Sperimentale all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottoressa Daidone, buongiorno e grazie. Buongiorno, Nicoletta. Allora, riprendiamo un attimo questi telomeri. Abbiamo visto che si possono allungare e accorciare. Lo fanno in continuazione, ma se lo fanno troppo si rischia. Per cui la ricerca è proprio orientata e impegnata a tenerli un po' sotto controllo. D'accordo, la nostra ricerca all'Istituto dei Tumori è rivolta a studiare i meccanismi che mantengono i telomeri, quindi la telomerasi, ma anche meccanismi alternativi all'allungamento dei telomeri, alternativi alla telomerasi, e sono dei meccanismi messi in atto nei tumori di origine mesenchimale come i sarcomi. E gli osteosarcomi, per esempio, e i mesoteliomi del peritoneo. Questo dal punto di vista conoscitivo per studiare il ruolo di questi meccanismi sulla prognosi del paziente e sull'aggressività del tumore. D'altro canto stiamo comunque cercando di accorciare i telomeri nelle patologie tumorali. Perché abbiamo visto che se il telomero si allunga rende immortale le cellule tumorali. Esatto, e noi vogliamo contrastare questo. Vogliamo mettere in difficoltà la cellula tumorale non dandole la possibilità di sopravvivere, di avere quei caratteri di immortalità. Quindi cerchiamo di contrastare questo allungamento andando a studiare dei farmaci specifici contro la telomerasi, oppure dei farmaci che possono comunque agire sul telomero e che quindi possono essere attivi potenzialmente sia sui tumori il cui allungamento dei telomeri dipende dalla telomerasi, sia dei tumori, sui tumori che sfruttano meccanismi alternativi alla telomerasi come appunto i sarcomi. Dottoressa Daidone, la ricerca ha i suoi tempi, ma che cosa ci aspetta per il futuro? Possiamo fare delle previsioni? Il futuro è fatto senza dubbio dalla collaborazione. Noi per questi studi stiamo collaborando con altri centri italiani e con centri internazionali, stiamo collaborando con dei ricercatori in Australia, stiamo collaborando con dei ricercatori in Inghilterra e spero che prossimamente potremo collaborare anche con la professoressa Blackburn. Per contro i primi farmaci, i primi inibitori della telomerasi si stanno affacciando alla clinica e si attendono le conferme sull'efficacia di queste strategie. Il cammino è lungo, è lento, però è meno lento di quanto non sia stato in passato. Grazie dottoressa Daidone per essere stata con noi, le auguro un buon lavoro e soprattutto buona ricerca, grazie. Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori per averci prestato attenzione e sicuramente supporto. E per oggi cari amici è tutto, noi come sempre ci sentiamo domani dopo il GR delle 11, vi ricordo che da domani Radio 24 si trasferisce al Salone del Libro di Torino, Padiglione 2, vicino alla Sala Blu. Essere Benessere arriverà con i suoi esperti venerdì, per cui l'invito è rivolto a tutti coloro che sono di passaggio o magari verranno apposta al Salone del Libro per incontrarci. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone.